Noi oggi abbiamo svolto questa conferenza stampa per precisare alcune questioni relative al boicottaggio. Innanzitutto abbiamo portato una traduzione in italiano di una commissione indipendente del Consiglio Municipale di New York, della città di New York, in cui si fa riferimento alle violenze in cui appunto la Coca-Cola viene, in seguito a questa commissione di verifica, messa sotto accusa per quanto riguarda la violazione di lesa umanità all'interno degli stabilimenti della Coca-Cola. Dopodiché abbiamo riportato in termini dettagliati anche le informazioni provenienti dal sindacato Sinaltanarla, che sono alla base del pronunciamento del tribunale di Miami in merito appunto all'incriminazione della Coca-Cola, dell'invio a giudizio per l'incriminazione della Coca-Cola, sempre per lesa umanità all'interno degli stabilimenti in Colombia, in modo particolare dentro la filiera delle imprese di imbottigliamento della Coca-Cola FEMSA, di cui la Coca-Cola & Company è azionista per un 40%. Ma noi stiamo rilanciando, voglio dire, noi siamo partiti con un ordine del giorno votato giovedì scorso dal Consiglio Municipale, oggi siamo arrivati a un ordine del giorno che verrà presentato al Parlamento Europeo, siamo arrivati a simili ordini del giorno che verranno approvati in decine di consigli comunali in Italia tramite la rete del nuovo municipio. Ordini del giorno di boicottaggio della Coca-Cola verranno presentati in circa 300 comuni all'interno del paese, sempre tramite la rete del nuovo municipio. Sappiamo, abbiamo ricevuto l'adesione e il sostegno da parte di parlamentari, Folena, Russo Spena, altri parlamentari di Rifondazione Comunista, consiglieri comunali e municipali, oggi avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa anche Maurizio Bartolucci, Cara Donna, il presidente del quinto municipio ha aderito all'iniziativa e ci ha mandato una lettera di solidarietà, una lettera di sostegno ci è arrivata dalla FIM-CISL, quindi uno dei più importanti sindacati italiani, Martone dei Verdi ci ha fatto arrivare un comunicato di sostegno, il coordinamento nazionale dei Gobas, oggi la CGL Funzione Pubblica nella figura di Fabio Moscovini ci ha dato la solidarietà del più importante sindacato del paese, quindi voglio dire, non soltanto noi non ci mettiamo su una posizione difensiva, ma rilanciamo e diciamo che la Coca-Cola deve rendere conto dei propri comportamenti di violazione dei diritti umani e sindacali all'interno delle imprese di imbottigliamento in Colombia e deve soprattutto dirci per quale motivo gruppi paramilitari entrano negli stabilimenti della Coca-Cola FEMSA in Colombia e uccidono sindacalisti nella più assoluta impunità. Fatto significativo è che in seguito all'uccisione di alcuni sindacalisti dentro gli stabilimenti della Coca-Cola FEMSA, la Coca-Cola e la Coca-Cola FEMSA, che appunto è l'impresa imbottigliatrice che fa capo alla Coca-Cola, non hanno fatto nessun tipo di denuncia, cioè la denuncia è stata fatta dai sindacalisti e dai testimoni. Questo, voglio dire, è indicativo della connivenza della Coca-Cola FEMSA e quindi anche della responsabilità della Casa Magia rispetto a alcuni atteggiamenti gravissimi che arrivano fino all'omicidio dentro al paese colombiano.